24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Ha chiesto di parlare il deputato Brunetta, ne ha facoltà. Deputato Boldrini, visto che lei chiama deputato il sottoscritto che è presidente di gruppo, io lo chiamerò deputato Boldrini. Eccolo lì, Renato Brunetta, combattivo, deputato Boldrini alla presidente della Camera, visto che lei mi chiama deputato, io che sono presidente, la chiamo deputato anch'io. Come ci ha detto Forchielli, come Taraghigna, Renato Brunetta. Va bene, buongiorno, questo è 24 mattino, siamo in compagnia di Miriam Lucchetti, in redazione, come sempre, e oggi c'è Carmelo Lauricella, mi ero rottamato l'alpino così, sono arrivato qua. Sono i fumi dell'alcol, i postumi della dunata, non ce l'ha fatta. Alle 6:34 minuti apriamo subito il nostro Parlamento. Evviva, c'è sempre la nostra bella Nicole a offrirci il caffè. E allora oggi voglio salutare Paola Saluzzi, buongiorno, presidente Paola Saluzzi, onorevole Paola Saluzzi. No, per carità, presidente, ma già secondo me onorevole è una cosa bella da dirci, sì, per entrambi, sì, cioè, io subito faccio la pace, no? Sì, insomma, ecco, si sono un po' scontrati, ma in fondo si vogliono bene. Quella subito che cerca di smussare, no? Ma sì, oggi, ma che ci stiamo a fare? Oggi non c'è il nostro direttorone Luca Dini, ma ti accoppio al nostro mitico onorevole presidente Vincino. Buongiorno, buongiorno. Eccolo qua. Eccolo. Buongiorno. Come sta il busto di Andreotti, Vincino? Ah, benissimo, io lo guardo ogni giorno in attesa della prima lacrima. Perché se piange e fa il miracolo, è fatta. In famiglia proprio. San Giulio. Paola, tu lo sai che lui ha un busto di marmo, in marmo. Ma io vi seguo con estremo interesse e ho fatto un salto sulla sedia quando ho sentito questa notizia, ma trovo che, come dire, ognuno debba tenere a casa i busti che vuole. Hai capito, Vincino? Ognuno c'ha i busti che si merita. Quelli che si merita. E complimenti, insomma, è una bella idea. Allora, a parte questa stizza di Brunetta, io oggi vi giuro, sto ridendo da due ore perché. Allora, Vincino fa le vignette per il Foglio. Paola Saluzzi, tu sai che ha combinato il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara? No. Vincino, dimmi che gli hai dato tu l'idea di questa. No, assolutamente no, guarda. Allora, si è travestito da Ilda Boccassini. Cioè, ci sono le foto che circolano di Ferrara con la parrucca rossa, con gli occhiali della Boccassini. E senti qui Paola Saluzzi sulle note del Rigoletto, bella figlia dell'amore, cosa ha cantato. La rossa di bravura, schiavo dei balletti tuoi. Ma una voce poi bellissima, senti. Con un'intercettazione dato tutta l'aria, ma è una roba no, geniale. Vabbè, no, questo è Vincino, no, è lui. È il coro, erano i redattori, guarda, i redattori in coro. Chi ha trovato la parrucca? Voglio sapere chi ha trovato la parrucca. No, ma senti ancora un giro di quest'aria, senti. Intercettazione. Vabbè. Vabbè, ma insomma, cosa? Vincino, cos'è che virus si è sparso lì al Foglio per lui l'ha, lui è musicono, lui sì, va sì. Una sera sì, una sera no, all'auditorium a sentirsi un concerto di musica classica. Questo è fatto così, bisogna dire. È fatto così. Paola, che dobbiamo dire? No, vabbè, ma la genialità c'è, perché, per carità. Tutto ma questo è per onorare il centenario verdiano, sì. Per il, insomma, È genialità, io ribadisco, voglio sapere della parrucca però. No, sì, della parrucca, non lo so, Vincino ha un busto di Andreotti, vuoi mettere che una parrucca a Boccassino? La trova. Parrucca rossa si trova tutta, l'ha pure mia figlia, non è questo. Lui però bisogna dire una cosa, non mi ha mai censurato una vignetta, Oh, dillo. Questo è bello per un direttore. Cioè, tutte quelle terribili contro Berlusconi, al cuore mi diceva no, questa assolutamente no, paf, subito. Ma perché tanto diceva, vabbè, noi facciamo il foglio, poi c'è quel pazzo di Vincino, gli mettiamo la vignetta, pagina 5, no? Pagina 4, e ti faceva fare questo. Vabbè, no, ma dopo la dobbiamo sentire ancora un po', perché è davvero straordinario. Comunque immaginate, a me la cosa che più inquietata è la foto che gira, la trovate su Libero, ma credo anche sulla foto di Ferrara agghindato come Ilda Boccassini. Ma a te, Paola Saluzzi, ti interessa questo processo? Cioè, lo segui? Mi interessa perché sì, perché deve interessare, perché va letto sotto tanti punti di vista, perché oramai si è arrivati alla fine, insomma, no? Ecco, all'attesa di una definizione, sì, primo grado. Finale. Ribadisco quanto sentito in studio giorni fa. Mi piace sentire dall'altra parte, da parte insomma del PD o altro, che si vuole battere Berlusconi al momento del voto, no? Sì, lo si vuole battere nelle urne e lì, ecco, non in altra maniera. Vincino, che oggi fa 3-4 vignette sul foglio anche dedicate, sì, a questo, ma questo processo Rubi, come ti sembra? È un clamoroso spot elettorale per Berlusconi. Addirittura? Praticamente, assolutamente sì, ma poi anche là, cioè là lei finisce dicendo io condanno, poi no, chiedo la condanna, sì, ma lei sì, mi fa io sì, condanno, perché lei è sceriffo, lei proprio è PM, è giudice, è appello, è cassazione, è tutto. È il giudice Dredd praticamente, no? È stupendo. Sì. Sì, ha avuto questa gaffa alla fine, che alla fine condanno, cioè sì. chiedo la condanna. Sì, il suo guai è questo, che però non ha nessuno, cioè come dire, non poteva non sapere, infatti ho detto, cioè non potevano scopare invece di non poteva non sapere, no? Perché questo è il suo disastro, che non ha. Non vorrei dire come ha detto Libero, però proprio sì, il titolo. Ecco, vorrei chiederlo a una donna, perché ieri mi hanno inchiodato su questa cosa. Ma il titolo di ieri di Libero, cara Paola, alla Boccassini manca il pistolino fumante. Ma è davvero una cosa. A me sembrava una cosa così. Un po' ridicola, un po' scherzosa. Invece perché c'è tu sei un bambino buono, Milan. Ma dai, su, ma voglio dire, c'è chi si è offesa, le donne offese, ma è chiaro che mica si riferiva a cose ben più gravi, eccetera. Cioè, è chiaro che era un giocare su, no? Te da donna. Ma ci sono stati vari gradi di offese, ci sono offese le donne marocchine, ci sono offese le donne, ci sono offese, sì. Ecco, forse se molliamo, per carità, ognuno ha le proprie ragioni, attenzione, non sto dicendo il contrario. Sono titoli, sono titoli che quando c'è un titolo in opposizione ad una posizione vuol dire che siamo in democrazia, poi può essere più o meno gradito, può essere più o meno come dire gentile, ma le donne sono dei bravi camalli, quindi sanno anche rispondere. Vabbè, ma a me non è grandemente offeso insomma questo titolo. Comunque voglio farvi sentire un altro bel Brunetta, perché voglio capire cosa ne pensate di Brunetta. Dopo deputato Boldrini si è arrabbiato molto, ecco, la presidente della Camera. Non ho sentito a Brescia, e io a Brescia c'ero, nessun insulto alla magistratura. Io nei giorni successivi non ho sentito da parte sua, onorevole Boldrini, nessuna presa di distanze né dal suo partito, che è qui rappresentato in Parlamento e che aveva con le bandiere disturbato una democratica manifestazione. Senti Vincino come combatte, ragazzi, l'onorevole presidente Brunetta qua Vincino che deve fare? Occhio con Brunetta, non fare vignette su Brunetta, per esempio. No, ma il guai è chi l'ha fatto capogruppo, però, perché vabbè. Chi l'ha fatto capogruppo, che ha fatto, comunque sia, lui è così, è fatto così, e però devo dirti una cosa, che la lite più divertente avviene mezz'ora dopo tra quelli di SEL e quelli di M5. Perché? Perché se ne sono dette di tutti i colori. Perché Vincino segue tutti i dibattiti della Camera, tutti per filo e per segno. Ogni io impazzisco, quanto mi piace a me quella cosa là, assolutamente. E questa storia del Copasir, Ma io penso, ma scusi, quello dice farò dossier su tutti i giornalisti che... E uno gli affida il Copasir a uno che fa dossier. Sì, sì. Cioè, come dire, ma, si è eliminato. Ma, no, ma chi il Copasir non va mica Gianni Fava di Sel? Di Sel dovrebbe andare, no? Mandiamola uno di Sel. Perché tu temi che vada uno del Movimento 5 Stelle che uno... quello fa dossier, scusami, al Copasir. Ho paura io. Tutti noi giornalisti dobbiamo avere paura. Saluzzi, tu hai paura, di la verità. Se vanno al Movimento 5 Stelle il Copasir. Diverte troppo il modo, giustamente Vincino e Mincino, e mi diverte troppo il suo modo di parlare, proprio da, c'è un che di stupore e di saggezza messi insieme, certo. Che in effetti danno da pensare. È il finto stupefatto, ma invece... si sta innamorando di lei, ma... si sta innamorando, dà del voi come caro. Come un tempo quando sentite Ferrara, quando Ferrara. Ecco. Sentite Ferrara. Schiavo dei balletti tuoi. Su questo è stato divino, un'intercettazione. Senti il cambio di tonalità. E vedete il balletto poi che farà lui. Il balletto. Sì, è quella là di Disney quando c'è quell'elefantone enorme che ha il rinoceronte là. Sì, l'elefantone. Dumbo. 24 mattino. Buongiorno, signor Milan. Possibile che non vi venga in mente dire le cose gravissime che invece sono state dette da Berlusconi in merito a Tortora? Primo, quello che ha affermato Paragonan. Secondo, dicendo alla figlia che ha perso un'occasione per piacere. Ma queste sono parole di un malato. Sei brunetta, guarda, brunetta. Voglio proprio parlare di brunetta. Sì, guarda, l'unica brunetta che piace agli italiani, devo proprio dirla, è quella dei ricchi e poveri. E poi c'è Cichito, che lo vedo bene su quella spiaggia di Amamette, in un chiosco, che prepara i panini ai nostalgici che andranno a trovare Silvio vicino al suo amico Craxi. Ecco, questa è la politica che finirà in Italia. Quella povera Boccassini, mi sembra che in quanto a gaffe e a pochezza di linguaggio faccia il paio con Di Pietro. Questa è la classe della giustizia italiana. Poveri italiani, dove siamo finiti? Non bastano le tasse dello Stato, gli oboli dei delinquenti, ora ci ammazzano pure a picconate. Viva i vagabondi che vengono protetti e tassiamo i lavoratori che portano avanti la baracca. Penso che ci voglia la pena di morte per quella gente tipo il picconatore, è ora di smetterla. Caro Milan, per cominciare a portare un po' di giustizia su questo discorso dell'IMU, non sarebbe il caso che lo Stato qualificasse come prima casa solo la reale prima casa che ogni famiglia possiede? Perché qui esistono i furbetti, come tutti sappiamo, che creano la doppia residenza, il marito dalla parte, la moglie dall'altra, e quindi tutte le case al mare, ai monti, in montagna, dove è, al lago, eccetera, dicono tutte come prima casa. Lo Stato ci rimette un sacco di soldi e i fessi pagano. E i fessi pagano, e questo dice l'ascoltatore. Allora siamo con Vincino, con direttore del Male, e con Paola Saluzzi che conduce Sky TG24 pomeriggio. Allora, avete meditato cosa potrebbe essersi fatto rimborsare il consigliere della regione Liguria? È il nome. Il Callifugo! No, Franco Rocca. No. Vincino, secondo te? No, guarda, è la Liguria che mi... No, ma un'abbondante fornitura di fagiani. I fagiani, 200 euro, un'abbondante fornitura di fagiani. Ma certo, basta. È il consigliere Rocca, in prima del secolo, mette i fagiani in conto alla regione. Si era messo anche del formaggio, dei due biglietti della lotteria, ma tra le spese rimborsate sbuca anche un quadro da 350 però, euro. Ma se lui vince con la lotteria mica ce la ridà. No. 350 euro di quadro, ma lui dice l'ho regalato al governatore Burlando. E allora, pagatelo da solo! Certo, siamo a questi livelli, ma i fagiani mancavano, sì, i fagiani. fagiani. No, i fagiani non ci sarei mai arrivata. E i fagiani, gli piacciono. Nessuno guarda i fagiani. Gli piacciono i fagiani, che dobbiamo fare? Vabbè. Sentite, sapete che alla Camera hanno dato la copertura sanitaria per il convivente omosessuale di Ivan Scalfarotto, deputato. È giusto. E allora valga per tutti, no? Solo la Camera? È solo la Camera. Paola, solo per i deputati. Perché si ammalano solo i compagni di quelli della Camera? Però quelli sono un po' più uguali degli altri, evidentemente. Perché... Cioè, infatti, oggi Libero lo mette addirittura in prima pagina. Vabbè, l'apertura di prima pagina, il titolo di Libero è La mutua gay della casta. Ma è giusto il loro ruolo di avanguardia, sì. Oggi qua e domani a tutta Italia. Questo mi pare una delle cose, poche cose buone che... Sì, vogliono andare avanti. Però la cosa è, in realtà è seria. Cioè c'è la copertura sanitaria e ogni deputato può segnalare una persona. E Ivan Scalfarotto ha segnalato il suo compagno Federico. Gli han detto, diceva Scalfarotto, se si fosse chiamato Federica non ci sarebbe stato alcun problema, ma Federico no. E invece lui ha fatto questa battaglia, ieri l'ha vinta. Ma perché deve valere per la Camera e non deve valere fuori dalla Camera, Paola Saluzzi? Ma forse, come dice giustamente Vincino, si comincia dalla Camera e poi la si estende a tutto il resto. Sì, cosa vorrebbe dire per i milioni di euro nelle casse dello Stato? No, io sai che cosa sto pensando? A quell'operaio di Vittoria vicino Ragusa che si è dato fuoco perché aveva 10.000 euro di debito con la banca e gli hanno pignorato e sfrattato e venduto la casa e ora ci sono persone emozionate, quello compra Pagani. Sì, è una cosa incredibile. Questa storia che racconteremo in rassegna stampa è incredibile, la storia di questo muratore disoccupato, disperato perché non riusciva più a pagare l'università alle due figlie. Un debito di 10.000 euro con la banca, gli ha messo la casa all'asta e pare che il compratore, di fronte a questa situazione, fosse disposto a recedere, a dire ma guardate a me, ridatemi semplicemente i soldi, che i 23.000 euro che ho pagato per comprare la casa, ma lasciatelo pure qui questo signore, ridatemi i soldi, io non sapevo, pensavo che fosse una casa all'asta perché abbandonata, eccetera, non voglio insistere, lasciatelo qui, insomma... Lo Stato invece, no Vincino, lo Stato, per carità, incarnato nell'ufficiale giudiziario, che non è che ha colpa in quel momento, però incarna lo Stato. È cieco e terribile lo Stato. È cieco e terribile, sì. Assolutamente, disumano proprio. E questo signore si è dato fuoco adesso. Ma anche le banche, dico io, santi numi, 10.000 euro, non stiamo parlando di un milione di euro. 10.000 euro. 10.000 euro, poi scusate, il paragone con i fagiani è da bar sport, nell'accezione più negativa del termine, me ne scuso. Ma certo, ma sarà populismo, però fa arrabbiare, certo. Vincino, scusa, qua parlavamo di Scalfarotto, mi sono perso. Dove noi ci siamo fatti, abbiamo una sede a Bruxelles enorme, grandissima, e che però non ci vuole andare nessuno. La Sicilia, la regione siciliana, spende soldi, hanno approvato tutte le cose peggiori che ci sono. Tutte 30 milioni in contributi alle singole parrocchie, alle singole fiere, alle singole cose. Un disastro totale. Sì, è la famosa tabella H, che ogni giorno viene messa ogni anno viene messa a finanziare per dare soldi a pioggia, ma quest'anno è stata bocciata, credo, dal commissario statale. Ci avevano provato. Infatti lo odiano a Palermo questo commissario statale. Comunque questa è una vicenda davvero incredibile e vergognosa, effettivamente. Un debito a 10.000 euro, pignorata la casa. E questo signore si è dato fuoco, ma ne parleremo approfonditamente in rassegna stampa, come di altre notizie. Io vi devo ringraziare e salutare Paola Saluzzi. Grazie Ale, e Vincino. Ciao Paola e ciao Alessandro. Le davi del voi un quarto d'ora fa. All'inizio, però la trasmissione è andata bene, e quindi capito. Va bene, ciao a tutti. Uno, due, tre.

la terza persona delle cinque che sono state aggredite da Madaka Bobo, questo giovane, questo uomo di 31 anni, ghanese, ma adesso non si capisce neanche se davvero sia di nazionalità ghanese, comunque un uomo che era anche stato colpito da provvedimento di espulsione, che ha fatto appunto in questo gesto di follia un'aggressione a colpi di piccone qualche giorno fa all'alba a Milano. Le vittime sono appunto, dopo Alessandro Carolè, 40 anni, Daniele Carella, 21, Ermanno Masini, ieri ha smesso di vivere, pensionato di 64 anni. E gesto che si poteva prevenire, per molti esponenti della Lega, per esempio, si poteva prevenire in modo semplice: questa persona che aveva precedenti penali, che aveva un decreto di espulsione, semplicemente non doveva stare nel nostro paese, secondo, se le leggi venissero applicate. Ieri però, ad esempio, su Avvenire, Marina Corradi, in un editoriale molto intenso, si chiedeva: ma è davvero così rilevante che l'assassino del Niguarda fosse un nero irregolare? In queste settimane le cronache sono state costellate l'esplosione di una follia altrettanto improvvisa, annichilente, compiute, gesti di follia compiuti da italiani. Ciò che forse facciamo fatica a ammettere è che l'assassino di Niguarda è semplicemente un uomo e nemmeno tanto diverso da noi da poterlo chiamare mostro. Insomma, discutiamo di questo, gesto, di questi gesti tragici e di tutte le considerazioni, il dibattito che ne è scaturito. Lo facciamo anche con voi ascoltatori, se volete. I telefoni sono aperti, 800 24 00 24. Con noi ci sono Massimo Bitonci, che è il capogruppo della Lega al Senato. Buongiorno senatore, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto anche l'assessore alla sicurezza e alla coesione sociale di Milano, Marco Granelli. Buongiorno assessore, eccoci qui. Buongiorno a tutti. Intanto assessore, le chiedo, è vero che Giuliano Pisapia ha ribadito ieri che il sindaco e quindi la giunta comunale di Milano non è contraria al eventuale arrivo di presidi dell'esercito per potenziare la sicurezza a Milano? Sull'esercito noi dall'inizio del nostro mandato abbiamo detto che siamo d'accordo per la presenza dell'esercito, per il presidio dei punti sensibili, fissi, per sgravare le forze dell'ordine da questo compito e fare in modo che polizia e carabinieri e guardie di finanza possano svolgere invece la loro attività nei quartieri e nella città. Quindi che ci siano dei presidi fissi va bene, se arrivano Presidi fissi per gli obiettivi sensibili, come già in parte avviene in Milano, per dire il Duomo, le ambasciate, i consolati, gli uffici, quei luoghi che sono possibili obiettivi terroristici o d'altro, che vengono sorvegliati in questo modo dall'esercito, e così poliziotti e carabinieri e guardie di finanza possono invece lavorare per mantenere la sicurezza. Però invece non vi piace, mi pare di capire, eventuali postazioni in zone della città che ne so considerate. Io per esempio, guardi, le do un esempio: quando ci fu il ministro La Russa, io abito in una zona di Milano dove per un certo periodo, sotto la campagna Strade Sicure, comparve una camionetta dell'esercito, stavano lì, proprio ebbi la fortuna o la coincidenza di averla sotto casa. Non è che mi sentivo più insicuro per questo, anzi tutt'altro. Sì, non è un problema di sicurezza e di percezione, è un problema di efficacia. Noi crediamo che, siccome questo intervento ha un costo per il Ministero dell'Interno, è meglio che il Ministero dell'Interno metta risorse per polizia e carabinieri, per i mezzi della polizia e carabinieri, per gli uomini sul territorio, perché negli interventi di sicurezza i militari non possono appunto intervenire, ma serve l'intervento della polizia, dei carabinieri, guardie di finanza, insomma delle forze dell'ordine. Quindi è meglio che quei soldi, invece che usarli per pagare appunto gli straordinari dei militari, vengano pagati per comprare la benzina delle auto della polizia, dei carabinieri, per pagare gli uomini e metterli sul territorio. Allora, è molto chiara la posizione del Comune di Milano. Senatore Bitonci, le faccio questa domanda diretta, lei che è sempre abituato a rispondere in maniera diretta. Non avete esagerato nel volere calcare l'accento sul fatto che la persona fosse clandestina, con precedenti penali e un immigrato, detto che sicuramente fosse stata applicata la legge, questa persona non doveva essere in Italia a compiere quello che ha compiuto? Ma guardi che quello che è successo è di una gravità assoluta, perché non è neppure il primo caso. Ci ricordiamo 2 anni fa quello che è successo sempre a Milano, dove quel comunitario invece ha massacrato a calci e pugni una ragazza filippina di 41 anni. È vero che questi episodi possono capitare un po' in tutte le città, però vede, è un po' una novità delle nostre città vedere gente girare col macete o col piccone a colpire i cittadini ignari che si trovano magari la mattina a consegnare i giornali o a bere tranquillamente un caffè. È vero che episodi di criminalità ci sono sempre stati e sempre ci saranno, però che ci sia una recrudescenza molto pesante e che questo fenomeno sia strettamente collegato al problema dell'immigrazione clandestina, e quindi noi diciamo sempre, questo è una cosa che vorrei dire chiaramente oggi come anche in passato, che noi non siamo contrari all'immigrazione sana, quella regolare, di persone che vengono qui per lavorare. Sì, ma quella è irregolare, ma quella clandestina, il problema grosso è anche l'attacco che, insomma, non mi è sembrato molto pesante, ma è stato ripreso da tutti quanti i giornali come un'offesa personale al ministro, perché io gli ho dato dell'incompetente, sì, dicendo che ministro non mi interessa, Chieng, il ministro Chieng, sì, che hanno detto che non mi interessa assolutamente che colore della pelle abbia, può avere anche verde, viola, cioè non è quello il problema. Il problema è che quando una persona ricopre un incarico di ministro non può andare a dire il primo giorno che bisogna abolire, sì, il reato di immigrazione clandestina, quando c'è in tutto il mondo. Però mi scusi, ricordiamo sì, ai romani che in Stato Vaticano c'è il reato di immigrazione clandestina. Sì, però le chiedo questo, senatore. Sì, no, certo, ma le chiedo questo, anche nella clandestinità rientra tutto. Lei lo sa che una per esempio l'esponente che oggi nella CISL è responsabile dell'immigrazione, adesso mi sfugge il nome, ma è stata anche nostro ospite, è venuta in Italia da clandestina. Il ministro Chieng stesso ha detto: sono arrivata in Italia, in quel momento ero clandestina. Cioè, guardi, l'etichetta di clandestina associata al rischio di criminalità è un po' esagerato. Faccio un esempio clamoroso, cioè un nostro militante della Lega, della sezione di Cittadella, sì, dove io sono stato sindaco, sì, per parecchi anni, è arrivato, è un ragazzo italiano, ora italiano, di origini albanesi, che è arrivato con uno di quei famosi barconi, soltanto che ha fatto un percorso. Ma certo, come la maggior parte di clandestini. È diventato un cittadino italiano, ha un'aziendina, è un artigiano, è iscritto alla Lega Nord, a noi non interessa assolutamente che sia di origine albanese, anzi è un bravissimo ragazzo, ha una famiglia e si è integrato, questo è il problema. Invece questo ragazzo, questo cabobo, era uno sbandato, sarebbe stato uno sbandato anche in Africa, perché ha creato problemi in tutti i posti dove è andato, perché è stato in carcere, ha creato problemi, quando è uscito ha creato problemi, sì, era stato incarcerato per rapina, per tutto, ed era ancora... Sì, è vero, nel centro d'espulsione è stato tra i fautori di una rivolta all'interno del centro di identificazione e espulsione, ma infatti questo Granelli, assessore Granelli, alla sinistra viene imputato questo buonismo nel voler giustificare tutto e nell'incapacità di far fronte a queste situazioni. Secondo lei, lei è d'accordo al fatto che Cabobo non dovesse essere in Italia, Granelli? Io penso di sì. Il problema è che la normativa attuale è la legge Bossi-Fini, quindi il problema è di riformare questa legge che da anni, e noi lo diciamo, ha dimostrato l'impossibilità e l'incapacità a gestire l'immigrazione, cioè quello che è avvenuto testimonia questo, cioè il fallimento di questa legislazione, e quindi il fatto che ci siano clandestini, a parte che poi intervengono altri fattori, perché la crisi ci dice che sta da sola tagliando un terzo dei clandestini, perché in provincia di Milano dal 2011 al 2012 i clandestini sono diminuiti del 30%, non per la legge ma per la crisi economica. Ecco, però vuol dire allora che dobbiamo con forza riformare la legge sull'immigrazione, avere una legge sull'immigrazione che favorisca l'immigrazione delle persone serie, sono moltissime che vengono qui per lavorare, e faccio in modo di identificare invece le persone che per follia, come in questo caso mi pare che sia rampante, o per criminalità, non devono stare nel nostro paese. Purtroppo questa normativa, che ha chiuso i numeri dell'immigrazione diciamo regolare, ha dato possibilità di ampliare il numero dei clandestini e soprattutto facendo in modo che le persone per entrare debbano entrare da clandestini e quindi utilizzare la criminalità organizzata che governa il fenomeno. Insomma, lei dice in realtà ribalta al tavolo, dice è responsabilità proprio di quella legge Bossi-Fini e quindi certo. Anche voluta dalla Lega, capito? È quasi 10 anni che c'è, quindi non... Non capisco come mai questo sia un problema del buonismo. Capisco anche i ragionamenti dell'assessore Granelli, però in realtà qui non è un problema di modificare la normativa Bossi-Fini, ma abbiamo un ministro che vuole togliere perfino il reato di immigrazione clandestina. Dell'interno è sempre stato vostro e abbiamo questo risultato. Io ricordo, all'assessore che ovviamente non è della mia componente politica. Beh, questo è chiaro. E vuole strumentalizzare la questione, che quando c'era il ministro Maroni si erano bloccati completamente gli sbarchi dei clandestini che arrivavano per mare dal Nord Africa. Ci fu la polemica degli accordi specifici che io e anche gli altri colleghi della Lega abbiamo chiesto a gran voce a questo governo perché ricominci una trattativa con la Tunisia e la Libia perché si riprendano quegli accordi, perché se vogliamo bloccare gli sbarchi e gli arrivi di migliaia di Kabobo nel nostro territorio, l'unico sistema è quello di riprendere. Mi scusi, Bitonci, le faccio questa domanda. Bitonci, le faccio questa domanda, poi devo andare un attimo in pubblicità. Ma a lei personalmente, se un migrante, chiamiamolo così, migrante che aspira per vari motivi, magari perché è mosso dalla disperazione dall'Africa, dal Maghreb, vuole partire, o dal profondo dell'Africa, arriva in Libia dove vengono trattati, incarcerati, messi in centri, detenuti. Se un migrante vuole aspirare ad arrivare in Italia, magari per poi andare in Inghilterra, e noi lo blocchiamo perché facciamo appunto gli accordi, a lei personalmente interessa il destino poi di questo migrante in Libia, oppure non gliene frega niente, basta che non arrivi in Italia? Guardi, io sono infastidito dall'atteggiamento degli inglesi, dei finlandesi e degli svedesi che non vogliono capire che l'Italia ha una posizione geografica completamente diversa dalla loro. L'Italia per la sua conformazione è un ponte naturale verso l'Europa e quindi bisogna considerare questo, e quando l'Europa non aiuta l'Italia e se ne frega di quello che succede da noi, fa un grossissimo errore. No, ma questo sì, perché però... dopo quelli che arrivano da noi, ovviamente molti vanno in Francia, vanno molti sì, vanno ma quello, in che, Germania, quello che volevo sapere io è a lei se interessa a lei. L'immigrato che ha intenzione di lavorare e quindi che probabilmente ha il parente come succede spesso in Francia o in Germania e quindi è intenzionato di trovare un lavoro, questa potrebbe essere anche un'immigrazione sana. Il problema che noi vogliamo far capire è che c'è tutta una immigrazione fatta di clandestini che vengono qui solamente per rubare e delinquere, che quella, ma questo l'ha detto chiaramente, no, però la mia domanda era diversa, ma adesso devo andare 5 minuti in pubblicità e riprendiamo da qui. E volevo capire, la mia domanda è se a lei come persona interessa o no il destino di un essere umano proprio, cioè che sta in Africa e che vuole ambire a vivere meglio e per questo trova qualsiasi modo per anche imbarcandosi, anche pagando migliaia di euro, magari di risparmi di tutta una vita per poter prendere un barcone che chissà se arriva dall'altra parte. 24 mattino. Eccoci qua, stiamo parlando dei fatti di Milano con le tre vittime di Mada Kabobo che ha colpito a picconate cittadini incrociati a caso all'alba di qualche giorno fa. Con noi ci sono il senatore Massimo Bitonci della Lega, l'assessore al Comune di Milano Marco Granelli, assessore alla sicurezza e coesione sociale, polizia locale e anche volontariato. Ci ha raggiunto, lo saluto intanto, l'onorevole Gianluigi Gigli di Scelta Civica. Buongiorno onorevole Gigli. Buongiorno. Lei tra l'altro è professore di neurologia all'Università di Udine, e tra un attimo sono da lei perché insomma, ha fatto delle dichiarazioni che ha fatto arrabbiare molti suoi colleghi. Prima vorrei qualche ascoltatore. Max da Milano, buongiorno Max. Buongiorno a tutti, io volevo fare due esempi dove secondo me è la base, si capisce la base del vero problema in Italia, che è il rispetto delle leggi e applicarle. Mi spiego, per esempio, in Inghilterra le case non hanno muri, filo spinato, ma c'è prato aperto e si arriva in casa. Come mai da noi bisogna invece fare, diciamo, una fortezza? E la risposta è semplice, perché in Inghilterra se qualcuno fa qualche diciamo delinque, viene preso per le orecchie e viene sbattuto o in prigione o fuori, punto. Da noi questo non succede. Cioè non c'è la certezza della pena, lei dice. Esatto. Secondo esempio, sì? Molto concreto, quando ci sono dei delinquenti, secondo me al di là delle norme anche personali, bisogna usare il buon senso. E mi spiego, se hai dei delinquenti con passaporto, cittadinanza marocchina o qualsiasi altro paese, vanno portati al paese, non tante trattative messe. Guardi Max, va bene, questo è un punto sul quale molti, molti battono il tasto, anche la Lega ne fa una battaglia, però c'è sempre una questione che molti non considerano. Per mandare un criminale nel proprio paese, questo paese d'origine se lo deve prendere. Se non si fanno accordi con questo paese, mica è un pacco postale, uno arriva alla frontiera e quelli là del Marocco, poniamo il caso, dicono no, non ce lo riprendiamo. Che succede? Lo abbandoniamo alla frontiera? Che, cioè, ci vogliono gli accordi bilaterali tra stati. Finché non si fanno questi accordi, uno, un criminale, può dire no, tenetevelo voi in Italia, che a noi non ci interessa. Comunque, grazie Max. Allora, prima di ascoltatori, voglio andare subito dall'onorevole Gigli. Onorevole, lei ha detto testuale, la vita di Mada Kabobo può far uscire di testa chiunque. Si è trattato di una reazione di natura psichiatrica da parte di un immigrato probabilmente sballottato dalle durezze della vita sulle nostre coste. Onorevole, però a questa appare un giustificazionismo mica male, eh? Ma guardi, io adesso non ricordo se fossero queste le esatte parole, certamente non era questo il comunicato che ho diffuso, credo che questo sia la sintesi di un'agenzia forse un po' approssimativa, ma sì, la sostanza comunque non la smentisco. Non smentisco. Io sono intervenuto in maniera molto forte, non era previsto che intervenissi, sono intervenuto perché sollecitato da un tentativo di squallido tra l'altro, di speculazione politica sulla pelle della gente, con chiari anche connotati razzisti, fatta dal onorevole Federica. Mi sono sentito mobilitato a intervenire, innanzitutto come medico. Chi è della Lega? Chi è della Lega? Come medico, dicevo, mi sono sentito intervenire prima che come deputato. Perché se un cittadino, come segnalavano i giornali questa mattina, il Messaggero Veneto di Udine, friulano, diciamo ammazza una persona in quel di Lodi, è un poveretto che come dire, ha dato fuori di testa. Se un soggetto come il nostro amico Ganese esce fuori veramente di testa, allora no, non è un folle come in realtà è, uno che sente le voci, uno che probabilmente ha perso, come dicevamo, la bussola in ragione anche delle condizioni di vita in cui si trova, non è un folle, è un squallido negro che va probabilmente preso a sua volta a bastonate. Ecco, io contro questo tipo di atteggiamento ritengo che vada esercitato innanzitutto la clinica, il buon senso. Quello com'è? È un caso di ordinaria follia. E quindi va trattato come tale. E le dà fastidio, soprattutto, ha capito, senatore Bitonci, visto che se l'è presa con un suo collega della Lega alla Camera, ha parlato di squallido tentativo di speculare, insomma, in maniera razzistica. Questo Gianluigi Gigli è intervenuto per questo, Bitonci. Ma guardi, secondo me l'onorevole, che probabilmente, ecco, forse l'esperienza o il momento è colto sul momento in cui non era molto preparata, si vede, è scivolata su una clamorosa buccia di banana, perché quello che è successo a Milano è la sintesi di molti fatti e richiama anche molti altri fatti che sono successi anche da altre parti. Come dicevo prima, è legato principalmente a un problema gravissimo, che è quello dell'immigrazione clandestina, che in effetti deve essere gestito in maniera diversa. Ma guardi che Gigli dice una roba diversa, dice perché sottolineate il fatto che ha avuto un momento, non lo so, poi si vedrà, se di follia, dice Gigli, comunque ha fatto un gesto sconsiderato, ma voi sottolineate, come lo fanno in tanti in Italia, o in tanti o in pochi, e voi perché, volete sottolineare che è un gesto sconsiderato fatto da un clandestino. Bisogna sempre cercare di giustificare in maniera pelosa quello che succede, e fatti così gravi bisogna chiamarli col loro nome e cognome. Bisogna ricordare all'onorevole Gigli che nei carceri italiani, soprattutto anche del nord, probabilmente anche nelle sue zone, i cittadini stranieri, comunitari, extracomunitari e clandestini sono il doppio rispetto a quelli italiani. Arriviamo a percentuali del 60-70% rispetto ad altre. Vabbè, l'accusa, onorevole Gigli, l'accusa è di giustificazionismo un pochino. Cioè, lei non vuole vedere in faccia la realtà che questo signore non doveva stare in Italia, banalmente, le fanno sapere. Gigli, lei perché giustifica tutto come se fosse un cittadino italiano? Gigli. Giustificando nulla, né ammettendo la immigrazione clandestina. Tra l'altro, per questo soggetto era stato esercitato tutto ciò che la legge permetteva, è in attesa dell'esito giudiziario sul suo ricorso, in base alle leggi italiane. Io non sto giustificando certamente il fatto che questa persona abbia ammazzato tre poveretti, sto solo dicendo che bisogna distinguere tra le connotazioni politiche degli eventi e i casi clinici. Questo era certamente un caso psichiatrico, un paziente folle, e come tale va trattato, cioè va trattato come un malato, che è qualcosa di diverso da anche un delinquente. Tra l'altro, questa legge prevede, nei casi appunto di follia, un trattamento giudiziario diverso per i cittadini. Sì, però all'obiezione della Lega, il fatto che in realtà non, appunto, con questi precedenti non dovesse essere in Italia, lei dice si stavano espletando tutte le normative di legge. Esiste una legge che tra l'altro ha a che fare anche con il fondatore della Lega, che regola l'immigrazione. E quindi questo è. Allora, eccoci qua, Assessore Granelli, insomma, quello che continua a insistere a dire Bitonci, anche molti ascoltatori via sms, non li posso leggere ma sono tantissimi a dire, ma nonostante quello che dice l'onorevole Gigli, la banalità è che se questa persona non fosse stata in Italia, almeno queste triplici uccisioni non ci sarebbero state. Lei, Granelli, segue più l'atteggiamento non, comprensivo, non dico che giustifichi le cose, ma comprensivo di Gigli, che dice ma è un malato e quindi bisogna trattarlo così, che fosse ghanese, che sia clandestino, che sia italiano, chi se ne importa, è un malato e va trattato in questo modo, o più l'atteggiamento di Bitonci? Guardi, noi dobbiamo garantire il massimo la sicurezza ai cittadini, quindi fare in modo che ci siano tutti quegli strumenti per evitare che questi episodi, in questo caso è una follia criminale, non avvengano. Che sia italiano o straniero non importa, noi dobbiamo evitare, perché purtroppo le follie criminali anche recentemente sono avvenute da parte di italiani, quindi più che altro non che italiano o straniero, ma che italiano e straniero in quella condizione legale, cioè clandestino, prima cosa secondo me è garantire la sicurezza da questo punto di vista, è avere una presenza, un controllo sul territorio, un rapporto con i cittadini, perché che in modo che appena si vede una cosa del genere venga segnalato. Purtroppo è stato segnalato con un'ora di ritardo questo fenomeno e questa persona, quindi questo, i carabinieri sono poi intervenuti al volo, ma purtroppo quando la cosa era già avvenuta. Ma al di là di questo, la prima cosa è questa, la seconda è una riforma della normativa sull'immigrazione che permetta di gestire nel più breve tempo possibile le situazioni dove c'è illegalità o comunque dove ci sono situazioni anche di follia, però devono essere gestite. Quindi una regolamentazione dell'immigrazione che permetta una gestione vera di queste cose, perché i proclami li buttiamo fuori o li mandiamo in carcere nel loro paese, dichiarati ma non realizzati, come è stato fatto in questi anni dal centrodestra, non servono. Ci vogliono accordi precisi con gli altri paesi. Sì, come si diceva, come si diceva. Se le riprendono, perché se le riprendono. Perché il Ghana ha già detto questo non è un cittadino ghanese. Sì, tra l'altro, esatto, quindi... c'è anche mistero sulla cittadinanza, pare che non è strano che insomma, dal Ghana dicono non è neanche certo che sia un cittadino ghanese. Allora, vuol dire fare una capisco che questa sia una risposta più a lungo termine, ma fare una politica vera, ad esempio con i paesi del bacino del Mediterraneo, perché non ci siano questi flussi. Non, il mettere un po' più di filo spinato o meno non risponde alle cose, vuol dire realizzare dei percorsi veri con i paesi del Mediterraneo, con la Tunisia, con la Libia. Proprio Maroni non è riuscito a gestire questi accordi, quindi io penso che dobbiamo lavorare perché nel bacino del Mediterraneo con la sponda sud ci siano accordi veri per evitare questa situazione, per fare in modo che le persone, quelle poche che compiono atti criminali o siano folli, vengano gestite. Sì, questo, ma questo è chiaramente. Onorevole Gigli, ma senta, lei, come detto, non prende le distanze e conferma tutto quello che ha detto, anche l'idea della persona che probabilmente è impazzita perché è sballottato da una vita così, un po' dove non ha trovato una sua collocazione, una sua... Non è che questo valga solo per questo signore, per questo criminale. Sì, vale certo, per tutti coloro che... In generale parlando, mi premerebbe dire, e aggiungo questo a quello che ha detto l'assessore, che sostanzialmente condivido, il disagio psichico, tutto il disagio psichico, è favorito dal disagio sociale. Il disagio sociale, ma anche quello più banale, che ne so, il disagio psichico aumenta laddove ci sono conflittualità familiari, separazioni, divorzi, dove c'è disoccupazione, dove c'è situazione di degrado. Ora, in questo caso, come in molti altri casi di italiani, di immigrati regolari, di immigrati irregolari clandestini come questo, il disagio sociale, il degrado sociale... Sì. Può fare da detonatore. Questo sì, però onorevole Gigli, secondo lei mettere scusi, sì, certo, ma mettere la prevenzione di questa di queste possibili episodi di follia, oltre a mettere in atto tutto quello che la sicurezza può prevedere, sì, deve però tener conto che esiste anche un imprevedibile che nessuna sicurezza ma può questo mettere. Sicuramente, però onorevole Gigli, prevenire è meglio. Le faccio questa domanda perché poi devo chiudere. Mettere sullo stesso piano il disagio sociale che può provocare delle ripercussioni a livello psichiatrico di una persona regolare, una persona che si comporta bene, e di una persona che invece ha compiuto una fedina penale lunga così, è clandestino, dovunque è andato, in prigione, a foto, non crede che siano un paragonare due persone che hanno percorsi diversi? Io sono d'accordo con lei che bisogna trovare gli strumenti per rimandare questa persona fuori o per tenerla in condizioni di detenzione psichiatrica. Tra l'altro ieri, aggiungo questo, abbiamo dato la proroga in Commissione Sanità, speriamo temporanea, agli ospedali psichiatrici, ma questo porrà ulteriori problemi per quanto riguarda la gestione. Lo sa, questo sì, è tardi però per le tre persone che sono morte. Questo, certamente, qui va tutta la pietà alle vittime, che però non deve diventare la pietà per le vittime l'oggetto, ripeto, per speculazioni politiche. Sui morti non si fa politica. Va bene, io vi ringrazio. Massimo Bitonci, capogruppo della Lega al Senato, Gianluigi Gigli, onorevole Scelta Civica, e Marco Granelli, assessore del PD della Giunta Pisapia al Comune di Milano. Ci fermiamo qui, vi diamo anche il numero della segreteria telefonica, prendete carta e penna perché arriva lo stacchetto con la segreteria telefonica, voi potete dare tutti i vostri messaggi e noi poi alle 6.30 domani li manderemo in onda. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino.